30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Steve Jobs, the visionary founder and leader of Apple Computer, has died at the age of 56. A giant in business, technology and entertainment, Steve Jobs had been battling pancreatic cancer for 8 years. 5 ottobre 2011, l'annuncio della scomparsa di Steve Jobs attraverso le televisioni americane, il mondo intero, una di quelle notizie davvero che hanno attraversato l'intero pianeta. Per questo imprenditore, informatico, inventore statunitense, per tutti l'uomo di Apple, di cui è stato cofondatore, ne è stato amministratore delegato fino al 24 agosto 2011, quando si era dimesso per motivi di salute che appunto hanno poi portato in ottobre alla sua scomparsa. Un saluto ancora e buonasera, benvenuti a questo appuntamento con 30 minuti in cronaca. Questa sera parliamo di innovatori, di invenzioni, lo facciamo con un ospite che ha pubblicato un libro dedicato a queste grandi figure, si chiama Il codice delle invenzioni. Il nostro ospite è Massimo Temporelli, innanzitutto grazie di essere con noi. Grazie a lei. Dunque, perché Jobs raggiunge questi picchi e perché c'è bisogno di scomodare appunto le figure del secolo precedente? Sì, sembra che nel Novecento ci sia stata ben poca attenzione per gli innovatori, o meglio, grandissima attenzione per le innovazioni, perché sappiamo che è stato il secolo della televisione, per esempio. Ma sappiamo pochissimo di chi ha inventato la televisione. Banalmente la mia riflessione è partita da lì e mi sono chiesto: ma perché nessuno si interroga sul nome dell'inventore della televisione? Già, chi ha inventato la televisione? In realtà non lo so, non me lo sono forse neanche mai chiesto. Tutti sappiamo chi ha inventato la radio, il cinema, il telefono, o meglio, presumiamo di saperlo, poi in realtà magari poi dopo lo svisceriamo. L'invenzione è un processo molto complesso che vedi sul palcoscenico più attori, no? Poi c'è il più bravo, il protagonista, alla Steve Jobs, che riesce un po' a condensare su di sé tutte le attenzioni, ma il processo dell'invenzione è molto complesso. Però diciamo che nell'Ottocento si celebrava, oltre all'invenzione, anche il nome dell'inventore, no? Tanto è vero che questi inventori diventavano dei marchi di mercato, cioè se pensiamo a Henry Ford è diventata la Ford, Marconi Guglielmo è diventata la Marconi, Edison, ancora oggi si sentono alcuni nomi che circolano, certo. Quindi ancora oggi a un secolo di Mentre distanza. Se vi dico il nome di Vladimir Zorkin, che è l'inventore della televisione. Chi è costui? È un russo immigrato negli Stati Uniti negli anni 20 e che negli anni 30 riuscì a trasformare un mezzo tecnologico piuttosto scadente, che era la televisione meccanica degli anni 20, in una tecnologia elettronica funzionante. Ecco, in questo senso dunque Jobs, e da lì partiamo, rappresenta in qualche modo un ritorno però con tante variazioni sul tema. Prima di proseguire, Massimo Temporelli è laureato in fisica, ha lavorato tra l'altro a ST Microelectronics, ha lavorato al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano, dove ha curato il Dipartimento di Comunicazione, seguendo le collezioni di telecomunicazioni, suono, fotografia, cinematografia, insomma quel bacino ricchissimo che peraltro chiunque può vedere e esplorare in quella realtà così vivace e importante che è il Museo della Scienza e della Tecnica di Milano. Torniamo un momento a Jobs. In che modo Jobs rappresenta, o meglio veste i panni dell'inventore? Perché la mia percezione è di Jobs manager. Certo. Qual è dunque il... Vabbè, c'è una diatriba, specie da quando poi Steve Jobs è mancato, ma anche prima. Questo era argomento di discussione non solo tra i miei amici e me, ma anche sulla rete c'è tantissima carne al fuoco rispetto a questo tema. Secondo me un innovatore è una persona molto più completa dell'inventore. L'inventore può inventare un meccanismo, un piccolo dispositivo. L'innovatore è colui che vede in quel dispositivo innanzitutto l'utilità pratica. Spesso gli inventori non arrivano, e nel mio libro ci sono alcuni esempi, non arrivano a immaginare l'utilità pratica di un meccanismo. Poi possiamo fare alcuni esempi, ad esempio il mouse nel caso di Steve Jobs. Mentre l'innovatore non solo vede l'utilità pratica, quindi vede già il prodotto, ma vede anche tutta la filiera industriale di progetto e di produzione del dispositivo che ha davanti alla sua mente o ai suoi occhi, perché spesso appunto gli innovatori non sono coloro che inventano fisicamente le certo. cose, no? Quindi Steve Jobs nessuno potrebbe dichiarare averlo visto inventare il mouse o inventare l'iPad o inventare il multitouch. Ecco, eppure noi associamo a Steve Jobs tutte queste invenzioni che obiettivamente hanno plasmato gli ultimi 20 anni della nostra storia. Ma allora che cosa mi sta dicendo? Che in qualche modo quasi il ruolo dell'innovatore è quello di carpire i segreti degli inventori che magari non hanno prospettiva? Sì, secondo me appunto l'innovatore è molto di più che un inventore. Il mio libro è dedicato agli inventori, ma di fatto agli innovatori, quelli che ce l'hanno fatta, quelli che hanno trasformato il mondo, perché l'innovatore o l'inventore nel senso più largo della parola è una persona che riesce ad analizzare il contesto, che è gigantesco oggi. Steve Jobs probabilmente guardava centinaia di mercati e centinaia di brevetti ogni giorno, e poi sintetizzare la cosa più complessa, riuscire a trasformare una tastiera, adesso non faccio nomi di prodotti, ma sappiamo bene cosa c'era prima, con 2500 tasti, in un solo tasto. Allora, una persona che fa un'analisi del mercato e poi trasforma una cosa che prima non esisteva, o esisteva, si chiamava telefono cellulare, in una cosa completamente nuova, ma è lui che l'ha voluto, non è stato l'ingegnere del centro di ricerca. Lui ha, in qualche modo, visto nel futuro, senza diventare mago, e si è accorto che l'usabilità del cellulare con tantissimi tasti era piuttosto scadente, scomoda, insomma. E l'ha fatto come in fondo ci aspettavamo, o quantomeno adesso ci aspettiamo che sia. L'abbiamo pensato, l'abbiamo progettato, l'abbiamo realizzato e soprattutto l'abbiamo brevettato. Anche questo è Steve Jobs, sì. Quindi la capacità di trasferire al mercato. In passato c'era anche un po' un atteggiamento quasi snob nei confronti della capacità di industrializzare dei processi. Sì. Non mi sembra che sia presente nel ecco suo libro. Da italiano dico, finalmente si parla di un personaggio come Steve Jobs anche in Italia, non che non lo si facesse prima, adesso lo si fa di più per fortuna, perché noi italiani soprattutto dobbiamo smetterla di pensare che fare un buon prodotto e avere successo sul mercato sia per forza una cosa negativa. Steve Jobs ha dimostrato che si può fare una cosa bella pur guadagnando dei soldi, pur facendo mercato, e viceversa, si può fare mercato pur facendo una cosa bella. Ecco, secondo me il merito dal mio punto di vista è mostrare come la tecnologia e il prodotto soprattutto sia una cosa positiva, si possono fare i soldi con questa cosa, non è una cosa negativa. Fare i soldi non è negativo, alleluia, sicuramente non basta fare i soldi per avere delle o essere capaci di farlo, per farlo con delle invenzioni, con delle innovazioni che obiettivamente trasformano poi la società, perché noi forse non ce ne rendiamo più conto, ma la progressione della trasformazione tecnologica è spaventosa. Chi l'ha vissuto nel mio mestiere, quindi nell'informazione, nel giornalismo, ancora 20 anni fa il grande problema degli inviati era trovare un fax dove mandare un pezzo. I telefoni cellulari, per quanto già presenti, non erano nella disponibilità delle redazioni o diciamo dei giornalisti normali, ce l'avevano forse le spie e pochi altri. Ecco, dopodiché nel giro di 10 anni si è fatto questo balzo che ci mette tutti al centro di un nuovo modo di condividere poi le invenzioni. In più Jobs forse, e poi concludiamo, parliamo anche da altri, ha questo grande merito di aver unito l'utile al bello. Sì, è la sua caratteristica. Ripeto, soldi, utile e bello, sembra una ricetta impossibile, lui è riuscito a farla. Riuscito a mettere insieme questi tre elementi, secondo me partendo dal bello, andando all'utile, e poi di conseguenza se fai una cosa bella e utile poi dopo il mercato risponde favorevolmente. Secondo me questo è il trucco, fare delle cose belle se riesci, nel senso ben studiate, utilizzabilissime, oggi si dice user friendly, ma soprattutto poi utili, altrimenti poi si vedrà che il mercato non risponde. Grazie per adesso a Massimo Temporelli. Lo ricordo, il codice delle invenzioni, da Leonardo da Vinci a Steve Jobs. Chissà come ha risposto il mercato proprio sui prodotti specifici, in questo caso di cui stiamo parlando, al termine di una settimana in cui abbiamo più volte raccontato le difficoltà, il calo degli acquisti. Abbiamo anche detto però che il settore dell'elettronica di consumo, insomma dei prodotti particolari come quelli di cui di fatto abbiamo parlato in questi minuti, ha retto bene. Vedremo nelle prossime settimane quali sono i dati specifici. 30 minuti in cronaca. I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti. L'insieme dei due costituisce una forza incalcolabile. Questa è una citazione che trovate appunto in questo volume firmato Albert Einstein. A proposito di genialità, di figure appunto di cui è persino difficile quasi percepire completamente la portata, di sicuro uno di questi è Leonardo da Vinci, che nel suo libro viene proprio affiancato da Leonardo da Vinci a Steve Jobs. Di Jobs abbiamo parlato molto, del genio leonardesco di cui peraltro il Museo della Scienza è il tutore, il custode. Ecco, in che modo queste due figure sono avvicinabili quantomeno? C'è degli elementi. Anche qua in rete si sono scatenati, tra l'altro, e mi fa solo piacere anche per via del titolo del mio libro, c'è chi dice non si può paragonare un genio come Leonardo da Vinci a Steve Jobs, a parte che nel libro non viene paragonato. No. Sarebbe un progetto carino da fare. No, però c'era forse degli elementi. Assolutamente, io magari un po' provocatoriamente vorrei associare questi due personaggi ad una stessa figura, che è sempre quella dell'innovatore, di colui che prova a guardare oltre il proprio tempo, le proprie le mode, le proprie culture. Sicuramente Steve Jobs lo è stato. Proviamo a vedere se Steve Jobs e Leonardo da Vinci si assomigliano, dove innanzitutto hanno lavorato entrambi in un luogo molto particolare, uno nell'Italia rinascimentale, dove convergeva tutto il sapere mondiale, no? Chi aveva progetti ambiziosi veniva a Firenze o alla Milano del Rinascimento per provare a progettare qualcosa di nuovo. Oggi dove si va se si vuole fare qualcosa? Cupertino, o almeno, forse adesso si va già altrove, sì, ma sicuramente negli anni 90, 80. Sì, si va in Silicon Valley, poi che sia Cupertino, Palo Alto. Certo. Ecco, quindi sicuramente un territorio. Ecco, la prima cosa è che sembra quasi che così come era per la prima rivoluzione industriale a Londra, chi voleva fare qualcosa di buono nell'Ottocento andava a Londra. Ecco, l'aggregazione dunque dell'intelligenza e degli stimoli non è casuale. No. Nel libro si parla proprio di questo, si parte dal contesto, cioè senza un contesto adeguato è difficile che un genio salti fuori, perché se il genio è colui che fa la sintesi di un contesto, come si fa a fare sintesi se non c'è contesto? Certo, del nulla o del poco. Quindi sicuramente Leonardo, se vogliamo forzare questo elemento, Leonardo sta al Rinascimento italiano, quindi alla Firenze del 400 e del 500, come Steve Jobs sta alla Cupertino e alla Silicon Valley del fine Novecento. Detto ciò, poi va da sé Leonardo, l'uomo vitruviano che mette al centro appunto di tutto il mondo questo corpo, no, dell'uomo. Steve Jobs è colui che per primo pensa all'interfaccia uomo-macchina come qualcosa che serva all'uomo, non alla macchina, no? Sembra banale oggi, però se voi andate a guardarvi i computer degli anni 70, prima che Steve Jobs entrasse prepotentemente nel mercato dell'informatica, le macchine erano brutte, erano dei mainframe giganteschi, grossi quanto questo studio, con dei pulsanti anonimi, non c'era nulla di familiare, di bello. La gente lavorava col camice bianco come se fosse su un'astronave, ed era una cosa per iniziati. Si andava quasi alla Mecca quando si andava a usare un computer per un informatico. Oggi invece il computer lo teniamo in tasca, sappiamo benissimo. Il gran merito di questo processo è sicuramente di Steve Jobs. Ecco, Jobs e Leonardo dunque in realtà punti di contatto ne possono avere, ma vorrei tornare un po' al processo storico, cioè in questa generazione noi citiamo oggi Jobs, rafforzato anche dalla sua parabola, dalla morte prematura per una malattia che ha in qualche modo condiviso pure con grande pudore con il mondo intero. In mezzo che cosa c'è? Voglio dire, gli inventori sono comunque merce rara, certo, o i grandi innovatori? Certo. Beh, nel Novecento, e lo ripetiamo, c'è stata pochissima attenzione per i nomi, forse perché i centri di ricerca e sviluppo che adesso andremo a vedere nell'Ottocento sono stati formati proprio dai grandi inventori, Edison, Marconi, Ford, hanno un po' cancellato la figura del singolo inventore. Nell'Ottocento c'è stato, secondo me, il libro lo cerca di analizzare forse in modo più approfondito che altri secoli, quello dell'Ottocento, quello che mi ha più affascinato, perché lì c'è l'apologia dell'inventore. Cioè, veramente erano dei divi, venivano esattamente come oggi a Steve Jobs, venivano riportate sulle riviste di moda, su Vanity Fair piuttosto. Erano dei divi che arrivavano in qualche modo nella fase matura della rivoluzione industriale, che quindi combinavano il loro genio alla esigenza produttiva. Beh, abbiamo citato Ford, voglio dire, è un esempio perfetto. Da questo punto di vista. Sì, perché anche prima dell'Ottocento, esattamente prima del 1819, in pochi si erano accorti dell'importanza dell'innovatore e dell'inventore e del tecnico in generale. Dopo il boom della rivoluzione industriale in Inghilterra, la classe operaia, i tecnici, ma anche gli imprenditori, quindi la nuova borghesia, si è accorta che coloro che avevano dato il massimo contributo per il benessere dell'Inghilterra in particolare erano stati proprio gli innovatori, gli inventori. E non è un caso che nel 1819 viene posta una statua in onore di James Watt, l'inventore del motore a vapore, all'interno di Westminster, cioè l'abbazia più importante di Londra, quella dove venivano sepolti soltanto gli scienziati, gli esploratori e gli eroi di grandi battaglie. Quindi, già in un paese che comunque ha fatto appunto di esploratori, eroi, scienziati una cultura, è un culto, certo. Quindi veniva elevato a questo rango. È come se l'inventore James Watt non era uno scienziato, era un tecnico, uno che con le pinze e i cacciavite aveva inventato la rivoluzione industriale, viene portato allo stesso livello dei grandi scienziati, alla Newton, che quindi venivano pensati come grandi filosofi più che grandi scienziati, e gli eroi di battaglia piuttosto che gli esploratori. Quindi dal 1819 fino alla fine dell'Ottocento e primi del Novecento l'inventore raggiunge l'apogeo del suo processo evolutivo, poi per scomparire nei centri di ricerca e sviluppo. Con qualche eccezione, mi permetto di rilevare, Mi viene in mente, abbiamo citato Einstein. Einstein ci associa a tutto un percorso che chiaramente non riguarda solo lui, ma che è quella dell'atomica, che però è un percorso, poi appunto lei è un fisico, per cui apprezzerà particolarmente l'associazione, ma insomma il Novecento è quasi il tempo anche della sofferenza, dell'invenzione dolorosa, delle forze scatenate e scatenanti. Arriviamo alla conclusione perché il tempo corre. In Italia oggi c'è spazio per essere innovatori e inventori? L'Italia è un grandissimo incubatore culturale, non mi stancherò mai di dirlo, abbiamo stimoli giganteschi, tanto è vero che poi gli italiani che vanno all'estero fanno quasi sempre bellissima figura. Uno degli esempi più belli è quello di Giovanni, un ragazzino giovanissimo 10 anni fa al Politecnico di Torino, viene chiamato da un professore universitario californiano che stava andando in pensione. Voi immaginatevi se questa cosa potrebbe succedere in Italia. Stava andando in pensione, legge la sua tesi, la tesi di questo ragazzo 25enne appena lavorato al Politecnico, e gli scrive una mail, dice: io voglio investire la mia liquidazione nel tuo progetto. Questo non poteva crederci, a Torino non sarebbe mai successa una cosa del genere, e va negli Stati Uniti, in particolare in Silicon Valley, e mi sembra l'anno scorso l'azienda fondata dai due è stata venduta per 30 milioni di dollari, quindi dopo 10 anni ha guadagnato da 0 euro per di valore a 30 milioni. Insomma, si possono fare anche dei bei soldi con l'innovazione, come in questo caso, come molti casi che leggono appunto da Steve Jobs, di cui abbiamo parlato anche questa sera, ad altri inventori innovatori, anche se ovviamente non è scontato. Insomma, in conclusione non mi resta che ricordarvi, ringraziando Massimo Temporelli di essere stato con noi, il suo Il codice delle invenzioni, da Leonardo da Vinci a Steve Jobs, è pubblicato da Oepli. Grazie ancora al nostro ospite e naturalmente di fare un grande saluto a tutti voi, cari ascoltatori di Radio 24, di 30 minuti in cronaca. Siamo alla fine dell'anno, da parte mia naturalmente, da parte di Carmelo Lauricella questa sera in regia, un augurio davvero di un ottimo 2012, magari pieno di innovazioni positive, piena di scoperte e di voglia soprattutto di scoprire in qualsiasi ambito della vita professionale e privata. Davvero un grande saluto, un caro abbraccio a tutti voi, un ottimo 2012, a presto.